e sarà sicuramente una manifestazione composita, larga, perché chiaramente terrà dentro tutti quelli che sono i movimenti del diritto all'abitare, che come è naturale e giusto che sia, continuano ad avere un ruolo importantissimo all'interno di questa città, anche perché appunto molte, diciamo, delle ultime vicende legate alle misure restrittive sono legate proprio alle manifestazioni per il diritto all'abitare, che dovrà andare a incontrare la conferenza Stato-Regioni proprio su questo tema. Ma poi ci sarà una larghissima partecipazione di, diciamo, noi l'abbiamo spesso definita un'alleanza sociale, se volete un tessuto sociale fatto di attivisti di spazi occupati, dei movimenti che si occupano dei rifiuti, del movimento per l'acqua, delle delegazioni di lavoratori di ADA, CAMA e ACEA, insomma, diciamo, una vasta composizione che si muoverà da Piramide a Campidoglio per rivendicare un'interlocuzione intanto con la giunta capitolina sui temi dell'abitare, sui temi dei servizi pubblici, della loro gestione, dell'investimento delle risorse, insomma tutto quello che è all'ordine del giorno. Molto chiaro. Siccome abbiamo sull'altro telefono Paolo del Roma Non Si Vende, se non faccio errori, e lui ha invece un po' di problemi di tempo, ti dispiace se lo sentiamo un attimo prima? Prego. Allora Paolo, pronto? Sì, vi sento, anche se un po' piano, ma vi sento. Va bene, no, io mi faccio sentire subito più forte. Ci sei? Senti sì, meglio? Sì, è una questione di regolazione del mix. Allora, Valerio ci descriveva la manifestazione di oggi, che si inserisce in un quadro complesso, complicato. Noi ci eravamo sentiti qualche giorno fa, abbiamo ragionato intorno proprio alla decadenza alla possibile decadenza del decreto Salva Roma. Intanto ne è decaduto uno, e abbiamo anche ragionato sugli esiti di tutto questo. Adesso ci troviamo di fronte a questa specie di situazione curiosa, no? Quasi che il nuovo governo riprende le fila di questo ragionamento per dire sostanzialmente tutto quello che la Linda Lanzillotta proponeva, ma forse anche peggio. Che ne pensi? Sì, un po' il rischio, credo, dovuto al ritiro del decreto avvenuto ieri è un po' questo, cioè che con lo spostamento, per così dire, a destra o su posizioni più privatizzatrici del governo, con l'arrivo di Renzi, il ripensare ai contenuti da inserire in un decreto che sembra necessario farlo al più presto per appunto salvare Roma, ma finanziare l'Expo e quant'altro, possano essere necessariamente più pericolosi di quella che era, diciamo, il compromesso che era stato raggiunto sul decreto Lanzillotta, cioè che anche noi avevamo, diciamo, spinto, diciamo, e ottenuto, cioè il fatto che alcune questioni venissero eliminate, stralciate da quell'articolo, ovviamente non contenti, e comunque lo reputavamo sempre una cosa assolutamente pericolosa, perché si parlava di possibili licenziamenti, di svendita del demanio, di liberalizzazione di ATAC e AMA. Certo è che oggi la questione che secondo me si pone e che secondo me proveranno a porre con il nuovo provvedimento sarà, diciamo, un non formale ma sostanziale commissariamento del comune e dell'amministrazione. Anche cioè, se su questo cioè il fatto che l'amministrazione sia ormai sotto ricatto da mesi da parte dello Stato centrale, perché è evidente che è da dicembre, anche da novembre, che viene portata in giro dal governo, prima Letta e oggi Renzi, dicendogli non ti preoccupare, ti daremo i soldi, ma poi puntualmente questi soldi non arrivano, e il rischio è che si arrivi a un qualcosa che sia, diciamo, una rateizzazione, non so se mensile o comunque a tempo, degli stanziamenti necessari per ripianare le casse, e quindi io ti do un tot ma tu mi garantisci che fai qualcosa che va nella direzione di quello che voglio io. Senti, questo da questo punto di vista, pronto? Pronto? Sì. Sì, da questo punto di vista sembra in qualche maniera, adesso io scherzo, naturalmente la prendo che il sindaco, nella sua persona, dopo i mancati appuntamenti di ieri sera, perché se ho capito bene non ha potuto parlare con nessuno di importante, ma è stato tenuto un pochettino sotto nel livello di sottogoverno, sia uscito molto baldanzoso, quasi un sindaco che potremmo dire Marino Vigliacco portaci all'attacco. Questo era un modo di dire di noi ultra da giovani al capo tifoseria che doveva aiutarci nel derby. Ma quanto è credibile un Marino che si scontra sulle privatizzazioni con Renzi? No, infatti è questo, soprattutto se ha un cappio al collo e viene ricattato rispetto a un suo salvataggio o alle dichiarazioni di default. Cioè, e questo credo che appunto c'è poco da essere valutato. Però in teoria nella legge istitutiva per Roma Capitale la Capitale non può andare in default. Non può andare in default, ma le cose cambiano. Le cose cambiano secondo me molto rapidamente, soprattutto con il nuovo equilibrio politico. Cioè, quello che a me ieri un po' è apparso evidente, ne parlavamo anche con Valerio, era il fatto che appunto, cioè, ci sia stato un riassestamento degli equilibri politici con l'avvento di Renzi. Cioè, si è deciso che il cavallo buono per i poteri forti non era più Letta ma era Renzi, che garantiva molto di più alle varie lobby e ai vari poteri forti. È evidente che su un ambito che è locale perché è romano ma ha una rilevanza nazionale, delle conseguenze e degli effetti di questo riequilibrio governativo ci saranno, e il problema è che appunto, cioè, il Marino deve sottostare, diciamo, ai diktat che arrivano dal governo e da Renzi, e il ritiro di ieri in fretta e furia secondo me va proprio in questa direzione. Cioè, come facciamo in modo a tenere ancora di più sotto scacco di quanto già non lo sia l'amministrazione romana, che probabilmente è anche invisa, diciamo, da una parte del PD, per condizionarne l'azione nella direzione che noi preferiamo, ossia quella della privatizzazione, della dismissione del demanio, delle politiche, diciamo, neoliberiste. Paolo, ok, questo è un po' il quadro, a noi interessa naturalmente, nel senso che descrivere la situazione è anche sui giornali. Però poi c'è tutta un'altra Roma, no? Parlavamo poco fa con Valerio, oggi c'è una manifestazione in Campidoglio, c'è tutta un'altra città, non è solo quella della manifestazione, c'è un'altra Roma, quella vera. Io mi chiedo poi su questo, i dipendenti, le famiglie, i lavoratori dell'ATAC, dell'AMA, dell'ACEA, un pezzo importante di questa città, ma anche gli stessi cittadini. Come facciamo a coinvolgerli? Come facciamo a tirarli dentro questa partita che si sta giocando sulle loro teste? Adesso non solo questi, naturalmente. No, la domanda adesso non è tanto la risposta, non ti sto facendo una domanda per una risposta complessiva, anche perché so che hai poco tempo. Parlo proprio anche rispetto a domani, no? Sì, cioè, sì. Proprio rispetto a oggi, concretamente, alla manifestazione di oggi. No, ma infatti il tema è quello appunto di come, diciamo, innanzitutto chiarirsi quali sono le idee rispetto allo scenario che abbiamo di fronte, che non è più, diciamo, solo l'Eda Linda Lanzillotta che intende, diciamo, fare determinate cose, ma c'è stato un cambiamento di quadro politico e noi, diciamo, che siamo così attori e vogliamo cambiare le cose, ce lo dobbiamo, diciamo, dire, raccontare, descrivere e essere coscienti di questo. E poi il problema è appunto attivare una mobilitazione, partire con una mobilitazione che investa il comune e che chieda fortemente che appunto che la strada da seguire non sia appunto quella che arriva segnalata dal governo, ma sia anzi tutt'altra. Su questo secondo me c'è un grande lavoro da fare. Oggi c'è questa importante manifestazione a cui ovviamente parteciperemo, ma appunto deve essere, diciamo così, l'inizio di una campagna di mobilitazione e di attivazione che deve raggiungere i cittadini, diciamo, di questa città, e che non può essere solo ed esclusivamente relegata, diciamo, a noi attivisti. Quindi lo sforzo che dovremo produrre Paolo, è proprio, diciamo, come arriviamo a comunicare lo stato di assoluta gravità che c'è su Roma per tutti insieme dare delle risposte e provare a cambiare, diciamo, lo stato delle cose. Va benissimo, allora l'appuntamento è oggi pomeriggio, adesso capiremo meno bene l'orario perché non me lo ricordo. Io ti saluto alle tre, perfetto, grazie. Quindi a tutti e tutti in piazza, sì, alle tre. Puoi anche salutare Valerio che è accanto a te e lui saluterà a te, così è una forma di un'etichetta radiofonica. Ciao. Ciao Valerio. Ciao, ciao. Paolo, sì. Sì, ti sentiva, in effetti. Allora, questo è un punto. Poi, invece, su Marino Vigliacco portaci all'attacco. Lo so che è una semplificazione, così, un po' da slogan. Come la vedi? Ma, non si è sentito bene. La risata non si è sentita bene. Allora, no. Ma guarda, innanzitutto, prendendola un po' più seriamente, chiaramente... bisognerebbe, per quanto ci riguarda, chiaramente non siamo le truppe di Marino. Detto questo, è chiaro che Marino, cioè, nel senso, subisce quella che è stata la sua inattività per un anno e mezzo. Lui, non so bene con quale, diciamo, parametro di valutazione, a una recente trasmissione radiofonica si è dato 7 più come sindaco, ma la verità è che è stato una figura completamente immobile, a parte alcuni annunci, e con lui buona parte della giunta capitolina. È chiaro che a questo punto, se uno dovesse fare un discorso localista, è chiaro che in qualche modo ci sarebbe da fare appello non tanto all'orgoglio dei romani, che è cosa che ci interessa ben poco, ma proprio alle proprie condizioni di vita, perché se il comune di Roma va in default, come diciamo in qualche modo da molte parti viene non solo ventilato ma auspicato, si mette a serio rischio quelle che sono le nostre attività quotidiane. Io penso semplicemente a chi fa una vita da pendolare, vedersi peggiorare il servizio pubblico, il trasporto pubblico, potrebbe voler dire rimanere incastrato sui binari della per esempio della Ostiense, della Lido, del trenino da Lido, o metterci un'eternità ad arrivare dai posti di periferia al centro o verso il centro. Vuol dire, sì, peraltro, peraltro adesso non è assolutamente per cambiare argomento, siamo su questo. Succedono delle piccole cose in città intanto che la grande politica si muove. Ieri il rastrellamento al Pigneto della Finanza, ancora contro i venditori ambulanti, quando conosciamo bene la situazione del Pigneto. Oggi addirittura a San Lorenzo, non è per essere San Lorenzo centrici, Polizia Amministrativa e AMA sta facendo una campagna di bonifica dei mezzi abbandonati. Pare che deve venire un assessore, questa è la voce. Sì. Però sembra che, insieme ad altri segnali, il presidio a Colleoppio, gli sgomberi dei Rom, che la giunta in questa fase si sia pure riaccreditata in una logica un po' di ordine e disciplina, no? Magari mi sbaglio, cioè che proprio vaghi. Ma io penso che più che altro lasci fare gli unici poteri che interagiscono sul territorio, cioè nel senso quelli che appunto controllano il territorio da un punto di vista dell'ordine e cosiddetto ordine pubblico. E questo è una questione che si era già posta il primo giorno del suo insediamento, quando appunto la polizia caricò il corteo proprio dei movimenti per il diritto all'abitare sotto l'altare della patria. E forse era paradigmatico. È chiaro che però c'è un problema nel momento in cui dovesse arrivare un commissario, perché a quel punto proprio questa deriva diciamo di pulizia, ordine pubblico, ma anche di appunto con una stessa mentalità affrontare quelli che sono i conti pubblici. Non a caso oggi Marchini, nelle sue dichiarazioni, appunto ritornava alla ribalta dicendo: qua bisogna cambiare tutto, l'impostazione proprio del comune, di come amministra la sua cosa. E Marchini non lo cito a caso, perché secondo me Marchini appunto continua a essere un personaggio abbastanza simbolico e chiave in quella che è un disegno della prospettiva futura del Campidoglio. Sì, che però secondo me è solo di una parte, no? Cioè, nel senso che è solo della parte più tradizionale dei poteri romani. Io, insomma, ho guardato come il Messaggero ha riportato questa notizia, e è molto curiosa nella maniera in cui l'ha riportata. In prima pagina c'era naturalmente via Poma l'assoluzione sulla notizia di cronaca, e poi in realtà questa notizia era riportata ma con pochi dettagli rispetto, per esempio, alla vicenda CEA, per esempio, no? Cioè alla possibilità che la vicenda CEA venisse e quindi gli interessi del suo editore venissero coinvolti direttamente in una privatizzazione? Sì, io penso che diciamo che gli interessi ormai vanno ben al di là di Acea, e sul piano del bilancio del Salva Roma sono diciamo indicati tutti quanti quelli che sono gli interessi chiaramente dei poteri forti romani, ma anche di quella che appunto è un'ottica diciamo simbolica su quale viene affrontata questa questione a livello nazionale. Mi spiego meglio, è evidente che c'è un dibattito nazionale su come va gestita Roma, i suoi servizi pubblici e il suo patrimonio pubblico, appunto affinché in qualche modo si indichi la strada per tutta Italia e si sbracci, scusate il termine, qualunque tipo di argine o di resistenza affinché si vada in un'unica direzione. Questo mi sembra la questione. Da questo punto di vista le alleanze possono essere le più inedite, perché il punto è che appunto esistono i poteri forti, esiste una parte del PD che non solo diciamo non apprezza Roma e la guarda da un punto di vista padano, ma la guarda da un punto di vista dei poteri forti, e quindi perché non fare un bel governo delle larghe intese anche a Roma, ad esempio? Chi ha detto che non è diciamo un'ipotesi contemplata anche questa? E chiaramente lo faccio per riflettere, pur parler, per dire semplicemente che sul piatto della bilancia chiaramente c'è tutto un ragionamento politico che sta sul piatto da gioco, ma dall'altra parte era quello che dicevi prima con Paolo, c'è sostanzialmente l'attività dei romani, la propria quotidianità. Non a caso abbiamo. Senti, tu hai notizie in qualche maniera di di voci dei sindacati della triplice CGIL CISL UIL? Non perché noi ci interessa e ci aspettassimo nulla, ma sapendo quanto sono radicati, per esempio, la CISL dentro le partecipate, ai livelli dirigenziali, a livello dei quadri e anche, diciamoci la verità, a livello di quello strato di lavoratori sindacalizzati per i propri interessi che sistematicamente sono, come dire, protagonisti dei distacchi, dei ruoli fantasma, diciamo nell'ATAC per esempio, più sei in alto in grado nel sindacato nella CISL e meno hai mai portato l'autobus nella tua vita, no? E fai tutt'altre cose, doppi, tripli lavoro. Hai sentito questo mio commento personale, la CISL mi querelerà, penso. Ma detto questo, notizie di pronunciamenti della CGIL, di qualche sindacato su una affermazione così grave del sindaco Marino, ne hai? Hai qualcosa? Ma ieri è uscita qualche dichiarazione del CGIL CISL UIL su appunto sulla risoluzione soprattutto del Salva Roma, nel senso inteso come finanziamento del debito della capitale e quindi garanzia dei servizi pubblici e quindi ad esempio degli stipendi di AMA, per dirne una, per la tenuta di ATAC, ma per la stessa CEA chiaramente. Questo per dire semplicemente che nel complesso debito della capitale ad esempio c'è AMA che si avvia anche lì a un rischio default abbastanza immediato. Voi immaginatevi se improvvisamente non pagano tutti gli stipendi di tutti i lavoratori AMA, che succede per strada, per esempio. Questo tanto per dirne una. Però al di là di questo, rispetto alla tua domanda, è sostanzialmente, a parte qualche dichiarazione, i sindacati confederali in questo momento tacciono, nel senso che appunto non così come diciamo un po' da ormai spesso accade, siamo acquattati a vedere un po' insomma come tira il vento. E chiaramente non prendono posizione. Questa chiaramente è una cosa che rischia gravemente di diciamo compromettere il futuro, nel senso che se anche poi a un certo punto si prendesse parola si rischia di chiaramente arrivare ormai a giochi fatti, e quindi sì, diciamo si può sbraitare un po', ma ormai le questioni sono belle che andate. Il punto è un po' questo che diciamo. Senti, noi siamo in conclusione perché abbiamo tra poco, intorno alle 10:30, altri due interventi telefonici. Invece sulla manifestazione di oggi, proprio specificatamente, no? Noi abbiamo un presidio permanente. C'è un po' di rumore di fondo, un presidio permanente alla piramide che ha posto al centro la libertà per i compagni e la repressione post manifestazione del ricordami la data? 31 ottobre. Abbiamo anche questa rivendicazione forte da portare avanti in questo quadro, perché le cose si legano in qualche maniera, no? Si saldano più che si legano, nel senso che parto dallo slogan che abbiamo deciso un pochino di utilizzare, anche perché diciamo può essere semplificativo. Noi abbiamo detto: Roma non si vende, Roma non si arresta. E questo è un po' lo slogan, che ha un duplice significato: non si arresta perché chiaramente non è pensabile affrontare le tematiche sociali che vengono poste, come quella che è stata posta il 31 ottobre, ma in generale quella che vengono poste oggi, per esempio la manifestazione o con l'iniziativa simbolica di occupazione a Piramide, rispondendo appunto con ordine pubblico, con diciamo restrizioni di libertà personali e via dicendo. E chiaramente c'è un gioco solido, ma dall'altra parte non si arresta per dire che quella Roma che si mobilita, che in qualche modo continua a avere presente qual è la complessità della partita in campo, delle speculazioni, della precarietà che questo crea a tutti quelli che lavorano, ma delle precarietà appunto che poi creano nelle nostre vite, quella Roma lì, che è la Roma che si mobiliterà oggi, non si può fermare. Diciamo che quelle istanze repressive non fermeranno le battaglie che portiamo e conduciamo quotidianamente contro quelle che sono le loro speculazioni. E quando intendo va benissimo, loro... va benissimo. No, ma insomma ci siamo capiti perfettamente. No, va bene, io ti ringrazio anche Paolo che ci ha tenuto compagnia e abbiamo ricostruito un po' il quadro. Più avanti sentiremo un lavoratore dell'ATAC, altri compagni, insomma cercheremo di comporre un po' il quadro di questa mobilitazione oggi pomeriggio, almeno come intenzioni, come voglia di farne un percorso. Ti ringraziamo e ti salutiamo e ciao. Io ringrazio voi, vi saluto e dico semplicemente appunto che oggi è solo un passaggio e quindi ci rivedremo nei prossimi giorni. Speriamo. Va benissimo, sì, non abbiamo parlato delle mobilitazioni che sono comunque programmate, ma lo faremo sicuramente più avanti. Ciao, le grazie. Racconteremo tutte. Ciao. Ciao, ciao. E questo era un primo contributo a questa situazione. Tra poco entriamo in collegamento di nuovo, però insomma abbiamo trascurato i giornali proprio, abbiamo dato due notizie stamattina, piccole, tra virgolette piccole, che sui giornali ci sono poco. Adesso vediamo se riusciamo a vedere se ci siamo sbagliati noi. Il rastrellamento di ieri al Pigneto, che dice che c'entra, no, insomma la Guardia di Finanza ieri ha messo sotto assedio un quartiere di Roma alla ricerca di oggetti contraffatti. Insomma, oggi a San Lorenzo, qua sotto, c'è un nucleo di polizia amministrativa che sarà qui per 5 giorni per ripulire il quartiere da motorini abbandonati, degrado, pezzi di carta. Qualcuno ha detto che deve venire un assessore in visita a San Lorenzo. Sì, sei in onda. Diciamo, a pensar male, come diceva Catacristi, no? Una coincidenza, due coincidenze, alla fine insomma c'è un indizio concreto. Mettiamo insieme il decreto Salva Roma, su cui bisogna ragionarci anche politicamente, al di là delle stracci che volano, eccetera, eccetera, con questo concentrica presenza e anche attacco, diciamo pure, no? Indiretto a quella che è l'amministrazione, con la storia del degrado, della Roma fa schifo, tutte queste cose qui, con ieri appunto il Pigneto, con la massiccia presenza, cioè si mette insieme qualcosa per creare, oltre quella che c'è, un'emergenza che poi fa sull'onda dell'emergenza al solito accettare tutti i peggiori provvedimenti. Il mio punto di vista è questo. Laddove all'ultimo momento con alcuni emendamenti era stato tolto l'intenzione del decreto, l'intenzione della Lanzillotta di mettere in vendita, tagliare posti di lavoro eccetera eccetera per le imprese dei comuni, per i comuni stessi insomma, che non rispettano il patto di stabilità, e questo era stato tolto, no, nella formulazione passata al Senato del decreto Salva Roma. Sì, oggi viene l'emendamento Pasquini, mi pare che si chiama, che era uno del PD insomma. Oggi il governo Renzi PD, no, ma non parla più di decreto, parla di disegno di legge. Esatto, il che significa, no, volevo arrivarci, siccome un altro decreto non lo puoi proprio fare, un disegno di legge c'ha i tempi suoi, significa che volente o nolente, si fa rientrare dalla finestra quello che era riuscito dalla porta, cioè nella sostanza chiunque stia al Comune di Roma, commissario, sindaco eccetera eccetera, deve prendere atto di questa situazione e quindi dare corso ai provvedimenti, poi saranno magari iter e strade diverse, ai provvedimenti di svendita, taglio dell'occupazione, servizi esternalizzati, insomma tagli drastici, perché questo lo impone l'emergenza. Quello che ne era riuscito a passare a livello, diciamo, parlamentare col decreto legge eccetera eccetera, si rimpone in questo modo, e chi lo fa? Lo fa il segretario del Partito Democratico a livello nazionale, non romano per capirci, nonché presidente del Consiglio, per cui quel minimo che c'è da pensare è questo. Di più, poi, come beghe interne, c'è pure da pensare che a Renzi e compagnia bella gli interessa pure tutto l'affare romano, diciamo così, no? Beh, se pensiamo semplicemente che una delle operazioni di cui si vanta Renzi per la sua Firenze è la sostanziale svendita di Ponte Vecchio, ma e non solo, è anche la privatizzazione dell'ATAF, no? La privatizzazione dell'azienda dei trasporti fiorentina. Qui c'è un po' clamorosamente, vengono a galla apparentemente alcune questioni vengono tenute coperte. Noi volevamo entrare in collegamento con un compagno, o credo che lavora Zetema. Di Zetema, perché una partita di cui abbiamo parlato in passato, ma che è molto grossa, che è relativa a risorse per Roma, alla cultura, ma anche alle risorse, cioè ai beni immobili della città, questa mega società che gestisce, che dovrebbe gestire tutto il passaggio da questo punto di vista, è in realtà per tutta una serie di poteri forse ancora più grossa della privatizzazione dei servizi in prospettiva, cioè la valorizzazione della città in quanto città monumentale, in quanto città immobiliare, non in periferia ma della sua parte centrale, quindi l'Expo, quindi il turismo e quindi le mani proprio sulla città. Qui ci sarebbe da riprendere il film di Rosi, chiaramente attualizzato, ma delle mani fiorentine sulla città. Ecco, diciamo che questo, da questo punto di vista, è interessante. Poi fa proprio scopa con i finanziatori molto moderni e molto web 33.0 di Renzi, fondi come Algebris, questi personaggi qua. Forse stiamo confondendo un po' i nostri ascoltatori, però il punto è la manifestazione di oggi, è questo decreto, è l'annunciata di fatto privatizzazione di ATAC, AMA e Acea, oltre quello che è già privatizzato. Sì, ovviamente. Ma con la logica dovete portare i libri in tribunale, dovete vendere, dovete licenziare le persone. Addirittura Marino ha detto: io non me la sento di mettere in cassa integrazione i dipendenti comunali. Qui qualche dipendente comunale forse dovrebbe pure svegliare a sto punto. Io spero che ci sia anche una reazione al di là di questi fantasmi de sigle sindacali che rappresentano solo gli interessi corporativi in un momento in cui c'è in gioco effettivamente il lavoro e la possibilità di sopravvivere dei cittadini lavoratori, ma dei cittadini stessi. Insomma, c'è bisogno di un risveglio da questo punto di vista. Direi stacchiamo un attimo, riproviamo a metterci in contatto con diversi lavoratori, perlomeno tra esternalizzate del comune, dipendenti comunali eccetera, e poi proseguiamo. 8 marzo, terzo round. Vi siete allenate? Noi siamo pronte. Compagne, lottatrici, sovversive, rivoluzionarie, prendiamo i microfoni. Anche quest'anno, per l'8 marzo, il martedì autogestito da femministe e lesbiche si misura in una sfida che richiede costanza, allenamento, determinazione e creatività. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica non stop. Sul ring, donne femministe, lesbiche, gruppi e collettivi di ogni dove, redazioni femministe di altre radio, centri antiviolenza, blogger. All'angolo il patriarcato. Ascoltaci sabato 8 marzo da mezzanotte alle 24 sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa o in streaming dal sito www.ondarossa.info. Partecipa anche tu, unisci la tua voce a quella di tante altre. mfla@ondarossa.info, mfla.noblogs.org. Thank you. Torniamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come avete potuto ascoltare, stiamo parlando degli esiti del dibattito sul quello che era il decreto Salva Roma e dello scontro che si è aperto ieri sera, aperto anche dalle dichiarazioni del sindaco Marino su quello che ha ricevuto come informazioni dal governo sulla partita della gestione delle aziende municipalizzate. Stiamo parlando della manifestazione di oggi pomeriggio, indetta anche per affrontare questi temi, ma soprattutto per affrontare la questione della libertà per gli attivisti che sono stati colpiti dalla repressione. Abbiamo in collegamento due attivisti e una lavoratrice dell'ADAC, la salutiamo. Buongiorno a tutti. Ciao, io non mi ricordo il tuo nome, per cui ti devi presentare Michela da sola. Michela Quintavalle, non è un problema. E dall'altro lato abbiamo Bruno. Ops, un po' di problemi tecnici. Ciao Bruno. Ciao a tutti. Allora, cominciamo con Bruno un attimo. Allora Bruno, io so che non hai potuto ascoltare la radio, ma comunque insomma il nodo anche della manifestazione di oggi, ma anche di questa grande partita, l'abbiamo provato a descrivere dentro un quadro che sostanzialmente sembra apparentemente la riconferma di una linea politica più generale di svendere la città. Come la vedi dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio? Ma a me pare che siamo in una situazione complicata, nel senso che i nodi stanno venendo al pettine, insomma, le politiche che hanno puntato sulla liberalizzazione in questo paese ormai hanno devastato buona parte dello Stato sociale, sono in atto da moltissimo tempo a questa parte, e mi pare che non c'è nessun cambio di tendenza, insomma si continua a spingere l'acceleratore su questo processo, colpendo non solo i lavoratori ma complessivamente quei settori sociali che stanno pagando ormai da moltissimo tempo gli effetti di questa crisi economica, e si vuole scaricare totalmente su queste persone. Quindi stiamo in un momento in cui rischiamo pesantemente, non solo e non a caso, poi ma ne parleremo magari in seguito, avvengono queste operazioni di carattere repressivo sia nei posti di lavoro, sia colpendo alcune di quelle che sono le avanguardie sociali di un conflitto che si va allargando e che sta definendo dei contorni molto precisi. Questo evidentemente li preoccupa perché le persone, non solo i compagni, ma le persone hanno cominciato a individuare gli elementi attraverso i quali sta avvenendo questo processo. C'è un meccanismo d'organizzazione, di riconoscersi all'interno di un conflitto sociale in atto, e questo è evidentemente un passaggio che preoccupa chi in qualche modo vuol determinare il controllo del conflitto e farlo pagare sostanzialmente ai soliti noti, come da sempre avviene. Eh sì, in effetti è più o meno questo il punto. Noi a Michela volevamo chiedere, gli diamo un attimino la parola, se questa cosa è in qualche maniera emersa. Ci diceva prima fuori onda che in questo momento ha colpito molto, penso lei, ma penso anche tanti lavoratori dell'ADAC, la campagna iniziata sui giornali, tra virgolette, sui nullafacenti, è vero? Assolutamente sì, guarda, io ti posso dire che quell'articolo di ieri che è firmato da Riccardo Tagliapietra, che noi abbiamo messo le carte in mano ai legali, vedremo se sarà possibile querelarlo, ma insomma va letto secondo due sì, due ricordiamo, due ricordiamo agli ascoltatori ricordiamo agli ascoltatori che l'articolo specificatamente dava dei dati sull'assenteismo in ADAC, giusto? Lui sostiene che comunque per spiegarci con gli ascoltatori prima sull'AMA, quindi tutte le municipalizzate, perché vogliono puntare il dito sul fatto che chi lavora in strutture pubbliche o in SPA molto grosse abbia comunque la tendenza ad essere un assenteista. Ora, io ho sentito degli interventi anche di altri colleghi che dicevano: ma se non mi danno le ferie, no, non c'entra niente, assolutamente, io nego totalmente anche questa cosa. Cioè, il discorso della malattia è un discorso imperante, c'è un medico laureato in medicina che mette una diagnosi medica sotto ad un certificato, per cui mentre noi non siamo in ufficio, per cui al di là che quel giornalista, quel Riccardo Tagliapietra, dice proprio delle cose inesatte, quindi io inviterei il Messaggero, noi abbiamo fatto una lettera di risposta stampa faremo un comunicato, insomma inviterei le persone ad informarsi, perché proprio si denota la sua incompetenza su come parla di ATAC. Non ha la più pallida idea di che cosa sia il libero compaga, non ha la più pallida idea di che cosa, di ogni quanto avvenga una visita, se una visita per l'idoneo. Ma io non sono proprio convinto che non abbia idea, io penso che siano persone che in qualche maniera quando scrivono rispondono anche a degli input, cioè se fai scrivere uno stupido è perché vuoi che il risultato sia quello. Ah, ma io sono d'accordo, però siccome uno poi denuncia sempre il giornale, non paga mai nessuno, uno denuncia sempre l'ATAC e non paga mai nessuno, la nostra linea di condotta invece sarà la persona, perché così se il messaggero dice al giornalista di scrivere un articolo stupido, forse il giornalista ci pensa due volte. Senti, a parte questo, no? A parte questo. Il rapporto disciplinare, perché l'autista si è rifiutato. Pronto? Forse il personale ispettivo ci pensa un attimo. Certo. Al di là di questo, l'ottica deve essere duplice, come ti dicevo, perché ci potrebbe parlare ore, no? Non parlano della carenza d'organico, non parlano del fatto che non ci sono i bagni e che veramente è cosa reale, che con tutte le infezioni che noi ci prendiamo è normale, uno sta male, va dal medico e il medico ti dà i giorni. Loro ti parlano di assenteismo, allora o ci vogliono far arrivare a come stanno i privati. Io ho lavorato con il privato e ti posso dire che una volta per una scheggia nell'occhio il pronto soccorso mi aveva dato 7 giorni, il privato ti dice togliti la benda con ancora l'antibiotico nell'occhio che teneva le ciglia occluse, insomma vai a guidare altrimenti domani non ti presentare al lavoro perché ti licenzio. Allora o l'ottica deve essere questa, oppure il diritto alla salute per il lavoratore deve essere assolutamente tutelato. Ascolta, va benissimo, cerchiamo. Pronto? Mi senti? Pronto? Sì, no, ascolta, proviamo a, va benissimo, però proviamo a interloquire, così riusciamo in qualche maniera anche con l'altro ospite a tenere un po' il filo di questa vicenda, non sono cose importanti, sono molto importanti, però proviamo a guardare un po' più in generale. Bruno, questo esempio piccolo... 5 minuti, tanto andate avanti voi, un attimo. Solo. Va bene. Allora, niente, il nostro interlocutore in questo momento non può parlare, 5 minuti... Allora, questo esempio che tu hai fatto, Quinta Valle, il nome non mi ricordo, Michela. Sì. Michela, è un esempio piccolo, no? Sembra piccolo, però ci annuncia un mondo, no? Anche per quanto riguarda i rapporti tra lavoratori, datori di lavoro, che è un mondo che purtroppo tanti romani già conoscono, no? Certo. Cioè tutti i precari, tutte le persone che lavorano nelle pizzerie, piuttosto che nel... tutti i precari che lavorano oramai dappertutto. Nella città, no? Un mondo di ricatti, di violenza, anche di sopraffazione. Rispetto a questo, in qualche maniera si può immaginare che i lavoratori di queste residue che erano municipalizzate diventino un po', nonostante quanto sono appesantiti da decenni di male gestione, di affarismi anche interni, specialmente ai livelli più alti, diventino un po' un'avanguardia di una coscienza di una Roma diversa? Quello è il sogno, quella è la speranza. Io ti posso dire che ci sto immersa dentro, eppure vedo ancora tantissima paura da un lato e tantissima ignoranza dall'altro, cioè tanti autoferrotrambieri, che è il mio mondo, quello che vivo nel quotidiano, ma parliamo di vigili, parliamo di netturbini, cioè non si rendono conto, non hanno ancora la percezione tangibile dell'inferno che ci si prospetta. Quindi ancora loro ti dicono: io lo stipendio lo prendo, e tutta questa voglia di lottare, tutta questa voglia di rischiare, tutta questa voglia di unirsi per il bene comune, io la vedo, ma ne vedo troppo poca, ed è su questa base che poi agiscono loro. Cioè, come ti dicevo, leggere quell'articolo, ecco perché noi faremo di tutto per opporci, perché grazie a Dio, grazie al cielo, insomma, finalmente la stampa, voi con le radio, le televisioni, stanno dando modo anche a noi autisti di dire delle cose, mentre in passato questo non era mai successo, per cui ATAC e stampa pilotata dicevano quello che volevano, per cui la cittadinanza poi sentiva solamente una parte. Ora per fortuna le cose stanno per cambiare, ma il discorso è che noi abbiamo come Presidente del Consiglio un signore che ha fatto dei danni pesantissimi a Firenze e che probabilmente giustificherà, cioè, perché qual è la strada ormai? La strada è che la cittadinanza non paga il biglietto e quindi bisogna mettere più controlli, bisogna massacrarli di multe, non lo so nemmeno io quello che vogliono fare. E i lavoratori non sono persone che lavorano bene, non sono persone che lavorano 24 ore al giorno, che non si danno malate, che addirittura quell'articolo parla di gente che prende la 104, cioè la 104 è una tragedia, significa avere un parente stretto con una disabilità grave in casa, e lì viene detto: hai preso la 104, a noi a dicembre davano 100 euro di più se non donavamo il sangue, se non prendevamo la 104 e se non ci mettevamo malati. Guidare un autobus con 39 di febbre non è come scrivere un articolo come il signor Tagliapietra del Messaggero, che probabilmente insomma scriverebbe un'idiozia in più, un'idiozia in meno a seconda di una linea di febbre in più o in meno. Noi portiamo 100 persone, per ogni errore nostro sono 100 famiglie che piangono, l'azienda dovrebbe darci il recupero psicofisico, qui non ci sono ferie, noi lavoriamo 350 giorni l'anno, questo è un lavoro usurante. Il signor Tagliapietra dovrebbe sapere che stando noi su quei mezzi fatiscenti abbiamo dischi assottigliati, protrusioni vertebrali, schiacciamenti, abbiamo il nervo ischiatico che è compresso, e quindi è normale che dopo tot mesi, io ho 33 anni e anch'io soffro di lombosciatalgia e ho 33 anni. Senti, abbiamo gente Michela, che guida da 30-40 anni, è fisiologico, queste persone dovrebbero tutelare il lavoratore e l'utenza, invece ormai hanno deciso, perché secondo me hanno deciso, noi ci ridurremo scheletri, cadaveri, faremo di tutto per opporci a questa politica che è vergognosa, perché continuano a mangiare soldi ed è sotto gli occhi di tutti, quotidiani, televisioni, giornali, quindi non mi sto inventando niente, mi facessero altri 30 giorni di sospensione, io continuerò a gridare questa realtà perché voglio difendere questa categoria, ma loro hanno deciso che ormai la privatizzazione sia l'unica, ecco, soluzione. Ecco, questo è il punto, Michela, su questo proprio volevamo chiederti, insomma, che dopo questo ritiro del decreto Salva Roma che annuncia tutti questi processi, com'è l'umore? Pensate di discuterne, di qualche iniziativa, qualche presa di posizione? Beh, spero che intanto ci siano oggi pomeriggio. Prego? No, dico, spero che intanto ci sia qualcuno oggi pomeriggio a questa manifestazione in Campidoglio. So anche questo, con i turni eccetera noi parteciperemo, però insomma serve, cioè qui bisogna gettare le basi, ragazzi, io sono 5 mesi che parlo con i lavoratori ancora non si rendono conto, i lavoratori vorrebbero delle iniziative meno obsolete, quando al lavoratore parli di sit-in, di sciopero, dice io sono venuto a fare dei sit-in anche quando eravamo 3 persone, poi abbiamo fatto manifestazioni dove eravamo 4.000, sit-in dove eravamo 1.000, però insomma il lavoratore va informato, va coinvolto, deve capire. Certo, solo un attimo, se c'è un attimo di pazienza poi riprendiamo il discorso, proviamo a sentire se l'altro interlocutore è con noi. Pronto? Io sto cercando di lanciare segnali ma non mi sentite. Ah no, scusami, perché appunto il telefono, no, ci sei. Mi sembra molto interessante quello che sta dicendo la compagna adesso sulla vicenda dei lavoratori, e mi pare che da un po' a parte lì evidentemente il giornale è Caltagirone, per cui sappiamo bene che la campagna di questo individuo e gli interessi che c'ha in questa città, quindi gli interessi dei poteri forti in questo momento si incontrano con gli interessi del governo, insomma, per cui c'è stato anche questo rafforzamento del cambio alla guida di un governo che probabilmente era un po' lento rispetto ad alcune necessità, no? Sappiamo bene che Renzi, come dire, è stato spinto soprattutto dalla Confindustria, perché bisogna dare un'ulteriore sterzata rispetto alle condizioni che ci stanno oggi complessivamente. E tornando, come dire, al tema che veniva posto, cioè su come si riesce a costruire anche un'opposizione più forte, più coesa, non solo in questa città ma a livello complessivo, è chiaro che noi lavoriamo sulle macerie, credo tutti quanti, cioè nel senso che si è scomposto complessivamente un conflitto sociale in questo paese, che si sono gettate le basi nel corso degli ultimi decenni, ricostruire quell'identità è un percorso che oggi va costruito attraverso le lotte, insomma. Io credo che non siano tanto le forme di lotta in quanto tali che sono obsolete o non comprese, è il problema che ci hanno chiuso nell'individualismo più sfrenato, cioè nel senso che le persone sono costrette, tra virgolette, a sopravvivere in condizioni di lavoro sempre più difficili, circondati da un mondo che conosciamo tutti, in cui aumenta la disoccupazione, la precarietà, ci sono i fenomeni delle migrazioni, cioè quindi c'è evidentemente un'economia globale dentro la quale vanno ricostruiti dei punti di riferimento su come si costruisce questo conflitto. A me farebbe piacere, ovviamente, come a tutti, una presenza dei lavoratori dell'ADAC, come siamo andati noi quando c'è stata la mobilitazione, perché questo non tanto perché sia un atto dovuto sicuramente, ma perché cominci un processo di riflessione collettiva. Cioè, noi in questi ultimi anni, come dato mi pare importante, ci siamo ritrovati nel corso delle battaglie che abbiamo prodotto a volte a fare dei percorsi insieme ai lavoratori della sanità, ai lavoratori dell'ADAC, comprendendo le differenze, cioè nel senso che chi lotta per il diritto all'abitare è un conflitto permanente, insomma, difende forme di dignità, difende il proprio alloggio in una realtà che è evidentemente sconvolta. Chi nel mondo del lavoro si ribella, sappiamo bene le difficoltà, insomma, anche le forme di ricatto che ci stanno, e come dire, una rappresentazione anche culturale che c'è, io credo oggi in un mondo del lavoro molto attaccato, che è quello appunto di essere molto restia a cominciare le battaglie e spesso anche a difendere magari il proprio spazio. Non mi riferisco ovviamente ai lavoratori dell'ATAC, ma insomma, come è successo per altre categorie, il proprio spazio corporativo. Quindi stiamo in questo senso, evidentemente è difficile interpretare, ma io credo che dobbiamo tutti quanti lavorare all'interno di un percorso in cui il bene comune e i diritti che ci vengono cancellati diventano il processo attraverso il quale si realizza un'aggregazione sociale di conflitto sociale in questo paese, che non può essere rappresentato ovviamente, per quanto ci riguarda, da nessuna istituzione. Cioè, insomma, questo mi pare che si sta radicalizzando con profondità, cioè questa necessità dell'auto-organizzazione come unico elemento di sopravvivenza e anche, come dire, di difesa della nostra dignità, insomma, perché spesso viene calpestata. Eh sì, perché spesso la politica, da questo punto di vista, ancor prima che comprimere i diritti, ancor prima che tagliare e mettere in ginocchio tanti e tante, la politica intesa come politica economica e politica politicante, è anche proprio un fattore potente di riduzione della dignità delle persone, chiamiamoli cittadini, ma anche delle persone, cioè di una postura passiva. Ma e su questo la trasformazione del mercato del lavoro è in questo senso qua, no? Da questo punto di vista mi piaceva sentire che cosa ci aveva da dirci anche Michela su questo. Poi, sempre per ritornare a quell'articolo, quel signore Riccardo Tagliapietra dice che ci sono autisti che non vedono l'ora di farsi passare ad inidonei, cioè lui parla di falsificazione di certificati, dicendo che prima era... Sì, la domanda è questa, no? Questo mi senti? Per cui proprio... Pronto? Mi senti? Di fare delle cose del genere, quando in realtà nessuno sa, l'ignorante, l'incompetente, l'idiota, non sa che nessun autista vorrebbe diventare in idoneo, perché diventare in idoneo significherebbe non avere una tutela, stare in un ufficio, riposarsi, perché ci sono patologie gravissime come ictus, come comunque forme molto gravi che veramente vanno a debilitare non solo temporaneamente ma anche definitivamente la salute. Vengono messi davanti ai tornelli della metro a prendere parolacce dalla gente e quell'idiota invece dice questi autisti si fanno fare i certificati falsi, tra le righe logicamente non espone proprio questo discorso, ma quello è, perché appunto le visite sono state affidate ai privati. Cioè, ormai pubblico uguale inefficiente, questi signori vogliono dimostrare che tutto... Mi senti Michela? Pubblico. Pronto? Deve essere privata, tra un po' pure l'aria che respiriamo privatizzeranno. Sì, infatti, proprio da questo punto di vista, un punto che è uscito nell'intervento di Bruno era proprio questa diminuzione del sentirsi anche cittadino oltre che lavoratore, cioè a livello di dignità. Cioè la politica istituzionale soprattutto, e in cui questa comprende i politici di professione, la politica economica fatta dai professionisti, la politica dei sindacati ufficiali, perché di politica si tratta, la prima cosa che fa sostanzialmente è mettere i cittadini, le persone, in una condizione di minorità, ma da un punto di vista proprio della propria capacità di guardare al mondo, di scegliere che cosa è bene per se stessi, approfittando sicuramente della meschinità quotidiana, delle difficoltà, della difficoltà anche di farsi un'idea del mondo. Tu questa cosa la vivi? C'è? Io la vivo che sì, comunque vedo gente che proprio si è arresa, cioè ormai è qui, ognuno insegue solo, ma perché è la vita che ti porta a questo, cioè se tu hai due figli, guadagni 1.000 euro al mese e sti ragazzini li devi mandare a scuola, gli devi dare il minimo di sostentamento, tu pensi solo a lavorare, quindi ti abbrutisci, non stai coi figli, quindi poi ci rendiamo conto che non li fai studiare, quello che dicevamo al tavolo con Improta, non li fai studiare e non si laureano, comunque se si laureano non sono in grado di fare le cose, cioè qua io vivo a Fonte Laurentina, qui sotto avevano fatto il corridoio della mobilità nuovo di zecca, non lo so quanti milioni ci hanno speso, invece di dire ok è pronto, ora mettiamo i filobus, compriamo i filobus, che cosa stanno facendo? Hanno distrutto tutto di nuovo, perché non c'entrano, perché hanno preso le misure sbagliate. Allora io mi chiedo, no, ma questi ingegneri, questi professori dai curricula stratosferici, questi professoroni iperstipendiati, ma dove si formano? Questa è l'Italia che va a scatafasso. Beh, insomma, quello si organizza, questi modi per spremere la mucca pubblica si organizzano. Senti Michela, noi ti ringraziamo tanto, però abbiamo altri interlocutori e niente, l'invito rimane a esserci anche oggi pomeriggio, secondo noi è molto importante che cominciamo a gettare le basi. Ha detto nessuno. Va bene, adesso non è importante, però oggi pomeriggio c'è questa iniziativa, anche quella del 20 gennaio. Sì, ok. Grazie Michela, a presto. Grazie a voi. Ciao. E allora, Bruno, ci sei ancora? Finalmente. Sì, ma Michela non riusciva, non rispondeva tanto agli input microfonici. Incazzata, e io quello che volevo dire a lei, ma insomma anche agli ascoltatori, a tutti noi, come riflessione forse abbastanza ovvia, che qui si mandano avanti, come dire, si manda avanti la fanteria, che sono le informazioni, le comunicazioni, si criminalizzano i settori sociali e poi si massacrano, no? Nel senso, sta manfrina che nell'amministrazione pubblica, che chi appunto c'ha un posto di lavoro garantito è nulla facente, ma alla fine va avanti da moltissimo tempo, no? Per cui c'è l'innovatore che magari adesso dà 7-8 mazzate in giro rispetto a questo tipo di realtà, rendendoli ancora più schiavo, e viene pure acclamato rispetto a un mondo che evidentemente non c'ha più, come dire, un parametro di riferimento, insomma, e mi pare evidente che questa società, ma non solo la nostra, è profondamente spaccata, insomma c'è da una parte chi evidentemente ha interesse a mantenere lo stato di cose presenti e comunque a puntare sul libero mercato, e chi rappresenta un'altra realtà che viene appunto schiacciata, no? E la cosa che diceva Michele alla fine, che non sa niente di questa manifestazione, dovrebbe essere, come dire, un segnale per tutti noi, cioè nel senso che probabilmente gli strumenti, anche se oggi riescono, come dire, a intervenire su molte realtà sociali, sono insufficienti, dovremmo pure con queste realtà trovare una comunicazione che sia diversa. Bruno, più radio e meno tweet, dai. Senti Bruno, io i tweet insomma manco che... No, in generale dicevo, volevo dirti... Quest'ultimo atto parlamentare, insomma, che a noi appare una manfrina, cioè preordinato, ritiri il provvedimento sapendo che vai al massacro, insomma, no? Vai al massacro della giunta, ma questo potrebbe non fregarcene pure niente, però insomma, come nota, all'interno di una sorta di resa dei conti dentro il Partito Democratico. Il Partito Democratico, certo, è un segnale che mandano, perché adesso non so se vogliono arrivare addirittura a negare questa possibilità, la metteranno ancora come maggiore cappiola rispetto all'amministrazione comunale, in questo caso romana, ma è un segnale che si manda più in generale nel paese, infatti non a caso, insomma, non è che Letta ci piacesse, ma insomma rappresentava ancora un settore sociale dentro il PD altrettanto vergognoso, ma che evidentemente ci andava più con i piedi di piombo su alcune cose. Insomma, mo siamo dentro questa realtà e bisogna ballarci, insomma, dentro questa realtà, e non mi pare che ce ne siano possibilità. Quello che la sensazione che ho io è che come dire, le forme di mediazione vanno sempre più scomparendo, insomma, si sta da una parte o si sta dall'altra, insomma, le manfrine elettorali, tutte queste cazzate che hanno interessare una parte della sinistra, risalgono veramente oggi fuori dal mondo, insomma, se non ci si rende conto di a quale livello è il conflitto, e che su questo evidentemente bisogna schierarci direttamente con i movimenti, con le piazze, con la possibilità di rivolta, se sta, non lo so, io non riesco neanche più a capire, se non nella miseria della difesa del piccolo orticello, che è veramente assurda, insomma. Sì, questa è la sensazione che mi arriva oggi, insomma, come realtà che c'è intorno. Sì, aggiungendosi solo che, insomma, quest'ultima può essere veramente, non dico l'ultima chiamata, però un segnale decisivo. Se non lo capiscono adesso in tanti che qui è rientrato tutto quello che voleva fare la Lanzillotta nel decreto Salva Roma, è rientrato dalla finestra, perché appunto ti portano a una situazione d'emergenza per cui chiunque sia alla guida del comune, commissario o sindaco, deve fare quel tipo di operazioni là, quindi vendere, privatizzare, ridurre il personale, eccetera, insomma. Questo sì, ma schiacciandosi, diciamo, delle ultime forme di democrazia popolare, referendum, insomma, viene tutto schiacciato dentro una logica del profitto e basta, insomma, questa è la realtà. E noi dicevamo, tornando magari a un tema che ci sta più a cuore in questa fase, dicevamo l'altro giorno all'assemblea pubblica a Piramide, insomma, questo mi pare che un segnale che si è cercato di lanciare un po' tutti i compagni e le compagne che sono intervenute, che la manifestazione di oggi, che appunto non è riuscita a penetrare molti settori sociali, non bisogna dirlo, la manifestazione di oggi è non è solo la difesa del movimento per il diritto all'abitare e per richiedere la libertà a tutti gli effetti per i compagni colpiti dalle misure cautelari, è la necessità di rispondere per coloro che in qualche modo hanno cominciato a costruire, a far crescere una diversa identità in questa realtà, una possibilità, insomma, hanno acceso un fiammifero dentro un deserto, che questo tipo di, cioè, noi dobbiamo difendere noi stessi, le nostre identità, il nostro desiderio di diversità, insomma, qui c'è in gioco ovviamente non solo nella manifestazione di oggi, ma in un percorso che va costruito, questo qui, insomma, cioè non a caso vengono colpiti i movimenti sociali nelle varie articolazioni, insomma, questo tessuto politico. Sì, direi che è l'unica strada, cioè che questa è l'unica strada. Io di questo ne sono personalmente convinto da molto. Mi pare che nella realtà questo è avvenuto, cioè finalmente si comincia a costruire un filo rosso tra le varie realtà anche a livello nazionale, e questo è altrettanto importante, che è basato soprattutto sul confronto, sull'iniziativa. Andranno fatti passaggi in avanti sicuramente, ma mi pare che ci siamo finalmente attestati su alcuni livelli di comunicazione e di identità sociale che sono molto, e politica, che sono molto importanti dal mio punto di vista. Ok, va bene Bruno, ti ringraziamo. Va bene, un abbraccio a tutti e ci si vede in piazza. D'accordo. Naturalmente sì. Allora, insomma, il quadro poi un po' scomposto, un po' confusionario, noi comunque teniamo sempre l'occhio attento. Aperti, ovviamente. Sì, con un po' di difficoltà per la doppia telefonata, e quindi però insomma siamo disponibili a trovare anche i meccanismi per incastrare e anche richiamare gli ascoltatori che volessero intervenire. C'avamo sempre un impegno con un lavoratore di Zetema che fra un po' proveremo a sentire, però un punto che secondo me no, assolutamente non è sottovalutato, ma che comunque compone questo quadro, perché questa è una riflessione che lascio proprio a Giorgio, cioè nel senso che per certi versi a me sembrava, io ho quasi ipotizzato, che in questa prima fase il governo Renzi, o perlomeno l'entrante governo, ma il vecchio governo, avesse deciso, questo è il quadro, parlo degli enti locali, in particolar modo sul comune di Roma. Ok, ACEA, ADAC e AMA, la ACEA in parte è già privatizzata, ADAC e AMA la mettiamo un attimino da parte, ci concentriamo su risorse su Roma e Zetema, patrimonio immobiliare e cultura, e c'è la partita su Fiumicino, sull'Alitalia, sull'acquisto dell'Alitalia, che è anche grossa per i riflessi su Roma, per il turismo, l'Expo è qui ad arrivare. Sembrava un po' questo il quadro. Improvvisamente questa accelerazione, cioè perché l'altra partita però non è che l'hanno dismessa, cioè sembra quasi che voglia prendere di petto tutti, avendo annunciato fuoco e fiamme, perché il neo premier, di cui noi non è che vogliamo parlare tanto, però ha lanciato una specie di libro dei sogni, 100 miliardi, prendo 20 miliardi di qui, faccio questo, faccio quello. I principali commentatori gli hanno detto: ma dove li prendi tutti questi soldi? ma chi te li dà? Quindi si è aperta la questione sul 3% di sforamento, si è aperta la questione diminuisce lo spread, però sostanzialmente tutti gli hanno detto: ma che ci stai a raccontare? Sta a cominciare la campagna elettorale, questa è un po' la sintesi, no? Non me lo faranno fare, vado in campagna elettorale. Invece forse no, forse vuole fare il novello, il Thatcher coi pantaloni, ma sul serio, no? Il Blair, cioè vuole andare alla carica tipo contro i minatori inglesi, non si capisce bene. Io credo nella sostanza che sia proprio così, cioè questa è una persona che sta sempre in campagna elettorale, si è visto pure secondo me nell'intervento d'apertura, il discorso di presentazione del governo che ha fatto in Parlamento, insomma quello non era... qualcuno potrebbe dire: ma che bello, una novità, finalmente un discorso diverso, ma cioè, non è questo evidentemente, no? E non perché la regola sia che il Presidente del Consiglio deve fare un discorso canonico alle Camere nel momento in cui presenta il governo, è proprio che seguitava la sua campagna, qualcuno ha detto i soliti discorsi della Leopolda, ed è così perché farà dal punto di vista del suo ruolo, cioè di Presidente del Consiglio, seguiterà a fare questo, seguiterà a fare annunci di campagna elettorale, seguiterà a fare quel tipo di ragionamenti lì, che con questi grandi cifri, queste mega suggestioni, dopodiché nell'atto pratico, nella pratica proprio dell'esercizio delle sue funzioni, e farà esattamente le cose come quella che è successa ieri, in cui ha mandato il ministro Boschi ad annunciare che il governo ritirava il decreto Salva Roma. Perché? Perché questo accontenta veramente tutti, e quando dico tutti intendo pure dentro il Partito Democratico, e soprattutto accontenta Forza Italia, perché ieri tra i più contenti, oltre la Lega che gridava vittoria perché Roma ladrone eccetera eccetera, quindi non diamo i soldi a Roma, sì, lì siamo sul folklore di copertura sostanzialmente, contenta Forza Italia, Brunetta è stato significativo perché dice: ma meno male, così Marino se ne va, perché vogliono non tanto la poltrona del sindaco, vogliono proprio tutta la ricchezza che c'è dietro la poltrona del sindaco di Roma, e quindi tutte le cose che dicevi te prima, insomma, è questo su cui vogliono mettere le mani, insomma. Allora, intanto diamo il buongiorno e il saluto a Luca del coordinamento cittadino di Lotta per la Casa e dei movimenti dell'abitare di Roma. Buongiorno. Ciao a tutti e tutte. Sì, per un attimo non ti si è sentito, di nuovo buongiorno, scusaci, ma ripeto, buongiorno, sì. A tutti e tutte. Allora, non so quanto hai potuto seguire del ragionamento che abbiamo fatto stamattina a partire dalla rassegna stampa locale, ma insomma oggi intanto c'è una manifestazione in Campidoglio, ci sono i compagni, gli attivisti che sono in presidio alla Piramide, ci sarà questa manifestazione dalla Piramide al Campidoglio, è importante perché mette al centro, ce l'hanno ricordato, due parole d'ordine, no? Roma non si arresta e Roma non si vende. A parte l'abbraccio che la radio e gli ascoltatori ti fanno personalmente per la condizione di difficoltà che stai attraversando, non so quanto hai seguito, ma insomma quello che cercavamo di focalizzare sembrerà un po' curioso, ma io stamattina ho aperto con Marino Vigliacco, portaci all'attacco, è una battuta, noi non siamo sponsor né di Marino né della componente istituzionale, però sembra quasi, no, che si apre una partita per cui Marino stamattina dichiara la Repubblica e dice: io non faccio il commissario liquidatore. Sembrerebbe quasi che da un momento all'altro chiama i cittadini romani a marciare su Palazzo Chigi con le bandiere della Repubblica Romana al vento, dicendo andiamo al Quirinale dal Papare, no, che ci vuole mettere in mutande. Scherzo, naturalmente la questione è serissima, però. No, se aspettiamo Marino credo che all'attacco non ci andremo mai, insomma, quindi conviene provare ad andarci da soli in autonomia, diciamo, e in libertà. E credo che dobbiamo provare a capire cosa sta accadendo. Sì, sicuramente ho sentito l'ultima parte della trasmissione. E quindi è chiaro che alcuni interessi forti premono su Roma, chiaramente sono magari anche interessi che calano più che in altre occasioni dal nord, ma sono anche interessi forti ben radicati dentro la città di Roma, quindi Marino prova a giocare la carta di chi diciamo di chi dice posso far saltare tutto sostanzialmente, perché credo che poi l'interesse non sia quello di far saltare il sindaco, di tornare ad elezioni, perché c'è l'elezione diretta del sindaco, non è che si può fare altrimenti, insomma, almeno dentro il quadro comunale, per quelle che sono le leggi e normative in vigore, e credo che l'interesse sia soprattutto quello di tenere lì, insomma, ecco, un sindaco fantoccio che faccia un lavoro di immagine, sperando che lo fa fatto bene. Non, spesso non riesce neanche a fare questo il sindaco di Roma, e poi però in qualche modo a, diciamo, lasciare semaforo verde a chi vuole ancora una volta divorare la città dentro interessi speculativi che ormai diventano, come dire, molto, molto di più, molto più voraci rispetto alla sola speculazione immobiliare, ma avvolgono la vita intera di una città, no? Questo è un po' anche il ragionamento che ci ha spinto proprio a pensarci come movimenti per l'abitare, non solo più come movimenti di lotta per la casa, e anche a cercare quelle connessioni fra movimenti, quelle lotte, quelle esperienze comuni che ancora sono fragili, come testimonia anche qualche telefonata che avete, diciamo, ricevuto prima, qualche corrispondenza, no? La mancanza di un contatto rispetto alla manifestazione di oggi con gli autisti dell'ATAC, eccetera. Però io credo che sia comunque un processo sviluppato, quindi credo anche che la manifestazione di oggi sarà una manifestazione forte, visibile, sicuramente con una grossa partecipazione dei movimenti per il diritto all'abitare, ma anche di altri, tanti altri pezzi di città, insomma. Quindi sono anche portato a vedere, diciamo, un processo in movimento piuttosto che il bicchiere mezzo vuoto che qualche altro intervento sottolineava. No, anche perché, insomma, andrà avanti e non si vedono, diciamo, ancore di salvezza dell'ultimo minuto, questa storia che riguarda il commissariamento, chiamiamolo così, del Comune di Roma, perché va in default e conseguentemente tutta la vicenda delle privatizzazioni, i tagli che riguardano le società controllate, questa non dico che è l'ultima spiaggia, ma certamente è un campanello forte, per cui o si svegliano adesso o non si capisce come possano pensare ancora migliaia di lavoratori, dei cittadini pure, di tutelare qualcosa che è assolutamente necessaria, insomma. Noi abbiamo raggiunto anche Paolo Di Vetta, buongiorno a te, abbiamo Luca al telefono di là, è anche un modo nostro per salutarvi insieme a tutti i compagni colpiti dai provvedimenti restrittivi della magistratura. Intanto l'ho già detto prima, insomma, c'era un problema di collegamento attraverso il telefono, ma insomma l'abbraccio di tutti, naturalmente, no? È una pronta libertà a tutti e due e a tutti i compagni. Buongiorno a tutti. Allora Luca, proviamo a rifare, non so se Paolo poteva ascoltare la radio, probabilmente no, ma insomma proviamo a riproporre le riflessioni che stavamo facendo, no? Stanno succedendo delle cose interessanti. Oggi pomeriggio c'è questa manifestazione, c'è il presidio a Porta San Paolo, alla piramide, che raggiungerà in corteo il Campidoglio, al centro a queste parole d'ordine, io lo ripeto per i nostri ascoltatori: Roma non si arresta, Roma non si vende, e però sta scoppiando una questione grossissima sul piano della partita delle privatizzazioni di Acea, Ama e ATAC, su risorse per Roma, conflitto con il governo Renzi. Un po' il sindaco sembra essersi svegliato dal suo letargo e voglia in qualche maniera non fare il commissario liquidatore. Come la vedi? Paolo? Sì. Sì, ci sono. Pensavo che avessi chiesto a Luca. No, chiedevo a te. Stavo vedendo anche TG24 in questo momento, e Marino addirittura minaccia di bloccare Roma domenica. Non ho capito bene che cosa ha in mente, però mi sembra che stia... Beh, io avevo ipotizzato... Misure antismog, magari. No, avevo ipotizzato tricolore, la fascia tricolore, la bandiera della Repubblica Romana, e Marino Vigliacco, portaci all'attacco, tutti verso Palazzo Chigi, tipo il Quirinale del Papare, insomma, una Roma repubblicana. Qualcosa di allucinante, che mostra dei nervi scopertissimi e anche una situazione di grande irresponsabilità rispetto a quello che sta accadendo dentro questa città. Diciamo che ha scelto per lungo tempo di dare più un'immagine di se stesso che di affrontare i problemi, ha gestito l'amministrazione dentro un conflitto con il PD che non si è mai risolto, e adesso stanno presentandogli il conto. Ma è una lotta tra poteri, è una lotta tra consorterie, nel senso che Marino viene sempre dipinto un pochino come lo stupido che circola per la città, ma in realtà probabilmente c'è qualcosa di più complesso che si è mosso dentro Roma. Però mentre accadeva questo, dentro una gestione veramente fallimentare della cosa pubblica, i movimenti hanno tentato invece di fare dei passaggi seri, hanno provato a mettere sul piatto concretezza, hanno provato a far vedere a chi governa dove stanno i problemi da affrontare, la questione della casa e del reddito prima di tutto. Anche su questo l'amministrazione, non, come si dice, potremmo dire virgolettandolo mille volte, non ne ha saputo approfittare, non ha deciso di guardare verso la città che soffre, verso la grande precarietà che si vive, ma ha provato a mettere insieme un mosaico di interessi legati ai profitti e legati alla rendita. Non c'è riuscito, non ci sta riuscendo, per cui si trova con tantissime persone in mobilitazione contro di lui da tanti angoli della città e su mille questioni. Si trova persone arrampicate sulla piramide, si trova persone agli arresti domiciliari perché hanno provato a porre i problemi come erano realmente. Ecco, Marino secondo noi non è proprio capace di gestire tutto questo, non sa proprio di che cosa stiamo parlando. La sensazione che abbiamo avuto è sempre stata questa, di un sindaco che non avesse esattamente la misura del disagio enorme dal punto di vista sociale che c'è dentro questa città, e che parlasse molto a slogan e si rappresentasse molto più che fare. Eppure era arrivato come il sindaco del fare, come era accaduto per Pisapia, come era accaduto per Di Magistris o per altri in giro per l'Italia. Ecco, il nuovo anche lì, anche a Napoli sappiamo, no? Che il decreto, quello che noi chiamiamo Salva Roma, che non c'è più perché ha annunciato un disegno di legge per cui un ricatto pesante, no? In realtà riguarda anche l'area metropolitana di Napoli, che è in un dissesto finanziario drammatico, no? Beh, è proprio questo il meccanismo, cioè hanno deciso di governare dentro la crisi provando a parlare in maniera affascinante anche alla sinistra o a quello che rimane della sinistra, però ci hanno solo parlato, gli atti concreti non li abbiamo visti. Mi sembra che Pisapia sta pagando pegno intorno alla questione dell'Expo, De Magistris mi sembra che stia tenendo come si dice anche lui un profilo rispetto ai meccanismi repressivi decisamente poco serio, e laddove i movimenti pongono i problemi sul piatto arriva puntuale la mano della procura, arriva puntuale la mano della questura. Su questo più grande di quello che vediamo noi. Questo meriterebbe una riflessione anche più attenta, no? Nel senso che proprio nello specifico noi ne abbiamo parlato, no? La tempistica, il tipico modello di polizia preventiva col braccio della magistratura rispetto a una situazione che si evince anche dalle carte. Io su questo, senza voler entrare nel merito, e capisco anche la difficoltà di entrare nel merito, ne abbiamo parlato con gli avvocati, però come valutazione generale chiederei a Luca, anche per capire meglio poi come avvengono certi meccanismi. Noi da queste frequenze in genere non facciamo sconti a nessuno, però insomma è proprio di ieri, strano caso, una dichiarazione del vice sindaco che noi ci saremmo aspettati 10 giorni fa, no? i problemi sociali di Roma, parliamo di Luigi Nieri, non si risolvono, o perlomeno non si affrontano alzando la tensione, in mezzo a un ragionamento più generale. Hai potuto leggere questa dichiarazione al Manifesto? Sì, l'ho letta, ma la domanda qual è? Beh, non è, io non faccio domande, cioè io pongo... La domanda te la faccio io, Lugo, sì, è più semplice. La domanda è, ma non solo sembra che parlino al vento, no? Ma questa diciamo componente che si richiama ancora una sinistra o vorrebbe apparire come una sinistra più seria, più impegnata, per non dire più radicale, di fronte agli ultimi provvedimenti, oltre che pronunciarsi in ritardo rispetto alla vostra situazione, ai provvedimenti cautelativi, al, diciamo, al problema della casa, arriva proprio fuori tempo massimo sulla situazione politica complessiva del Comune di Roma. Cioè la domanda è, ma Luigi Nieri ma non capiva quali nubi si stavano addensando intorno alla Giunta Marino con questo siluro che gli ha tirato Renzi? Questa è un po' la cosa. E se posso aggiungere, no, anche se posso aggiungere, se, anche se rimaniamo... Pronto? Sì, no, interessante posso, il fatto, no, che dire tutto voi. No, ma questo è tipico di Radio Onda Rossa. No, non volevamo dire tutto noi, era una domanda. No, perché volevo aggiungere una cosa, anche se forse finiamo troppo in famiglia, ma insomma, voglio dire, anche la risposta dell'aula Giulio Cesare, no, nelle diverse componenti è apparsa un po' debole rispetto a questi fatti del decreto, no? Siamo molto preoccupati, ha detto un capogruppo di SEL in consiglio comunale, che poi è un po' poco, no, essere preoccupati di fronte a un attacco del genere. No, io credo, intanto una piccola nota positiva, nel senso che se queste dichiarazioni sono arrivate ora grazie soprattutto al fatto che i compagni e le compagne hanno saputo rompere questo silenzio che si stava che si voleva far calare attorno a questa vicenda, alla situazione dei movimenti, magari prefigurando anche attacchi ulteriori, insomma, ecco, a questa realtà di movimento che ha sicuramente avuto la capacità, dentro una situazione non facile, di saper prendere parola e di far intravedere uno spazio di possibilità, di conflitto, di cambiamento reale e radicale dell'esistente. Quindi insomma, è un primo segnale che stiamo, secondo me, facendo bene, insomma, quindi non parlo tanto della nostra iniziativa, dello sciopero della fame, sarebbe sbagliato parlare di noi stessi, penso soprattutto a quello che sta avvenendo anche con l'occupazione della piramide Cestia e il corteo di oggi, che sarà sicuramente un corteo grande. Sì, no, e altre intanto domande andrebbero poste soprattutto agli interlocutori. No, è che non rispondono al telefono. Difficile stare nella testa loro. No, sono molto impegnati, non rispondono al telefono in questo momento. Fine, Luca, prevalga, io dico quello che penso con molta schiettezza. L'elemento dell'autoconservazione della propria posizione, no? E quindi le resistenze, diciamo, siano dovute soprattutto a questo. Il fatto politico però che oggi viene posto di fronte a noi in maniera sempre più chiara è che ci troviamo dentro una fase, diceva bene Bruno, in cui si avverte che non esiste nessuno spazio di mediazione, quindi interessi pesanti e politiche calano dentro questa realtà nazionale e cittadina in maniera assolutamente verticale e hanno bisogno semplicemente di qualche fantoccio che diciamo faccia un po' da intrattenitore, da polo d'attrazione di consenso, e mi sembra che poi alla fine in generale, al di là di Renzi, Marino, delle diverse figure, ci si riesca sempre meno. Quindi è un conflitto sempre più netto, più radicale tra queste politiche, questi interessi materiali e chi a questi interessi si contrappone, non a chiacchiere, si contrappone con i fatti, insomma. Quindi credo che è un po' questa la situazione che abbiamo di fronte, e dentro questa fase il ruolo della magistratura, delle cosiddette forze dell'ordine, è un ruolo anche di supplenza, no? della politica, nel senso che se la politica non tenta nemmeno di riassorbire, no? le spinte propulsive che arrivano dalla società, dai movimenti, eccetera, intervengono questi meccanismi repressivi. Quindi in qualche modo forse ci dobbiamo anche ad abituare al fatto che bisogna reagire, non assolutamente pensare che sia qualcosa di ineluttabile la depressione che arriva, no, certamente, ma no. reagire però anche riproponendo il proprio discorso, riproponendo le proprie battaglie, le proprie prospettive in maniera ancora più forte. Quindi forse il corteo di oggi ha anche questa funzione, no? Di legare la questione degli arresti, della repressione che ci è arrivata addosso, alla necessità di porre il problema e di articolare un discorso che deve proseguire, deve sapersi sviluppare. Se lo fa oggi in maniera imperfetta, io però sono convinto che sarà una bella manifestazione, perché magari manca qualche pezzetto di città, questo pezzo si potrà diciamo collegare anche in seguito dentro un processo che credo che comunque si sia espresso, no? anche sul piano nazionale, che quindi sia comprensibile questa necessità di incontro dei movimenti, ma anche di apertura appunto a tutte le figure sociali che oggi possono pensarsi come incompatibili con questo modello di sviluppo, in qualche modo irriducibili a questa realtà. Sì, allora io, dando la parola a Paolo, gli propongo semplicemente un altro pezzo, un altro stimolo, nel senso che mi sembra, però magari mi sbaglio, che dalle riflessioni che abbiamo tessuto oggi emerga un quadro che necessita anche un salto di qualità in un certo senso, no? Cioè la necessità di stando dentro anche le difficoltà reali della capacità di connettere la parte più dolente della città, che in qualche maniera già ha preso parola, però che ci sia la necessità di mettere insieme molto di più e con molta più forza tutta quella parte di città che non è la totalità della città, perché questa città è una città che almeno in parte vive sulle spalle di un'altra parte della città. Non usiamo molto il termine cittadino ultimamente, però a noi i termini indistinti, che sono utili qualche volta per raccogliere un più ampio consenso, non ci convincono fino in fondo, perché c'è una parte dei cittadini che vive sulle spalle di chi è precario, che vive sulle spalle di chi non ha casa, e non sono soltanto i grandi padroni. C'è una parte dei cittadini che si candida dentro questa temperie, tra virgolette, di neoliberalismo a prendere in mano anche questo volano, e una parte di città che invece lo soffrirà soltanto. Non è ancora dalla nostra parte, mi sembra. Sì, sì, hai detto correttamente le cose che dici, cioè questa è una città anche abbastanza complessa, è una città che ha caratteristiche molto impiegaticie, cioè ci sono situazioni tutte da ancora indagare rispetto al meccanismo del conflitto. Certo, parlare di salto di qualità con chi è indagato al pool antiterrorismo in questo momento a Roma è divertente. No, però salto di qualità sia politico, per me le persone che stanno qui sì sono interlocutori politici, e questo non me lo impedirà nessuna inchiesta, insomma, di nessun magistrato. Giocare su questo proprio anche in chiave di contrasto rispetto all'atteggiamento della procura, perché aver costruito un pool antiterrorismo che deve indagare sulle lotte sociali è veramente un'aberrazione anche della macchina giudiziaria mainstream, diciamo, no? che andrebbe quantomeno distorta dal suo punto di vista. Io ho fatto una riflessione guardando i giornali ieri, dopo l'iniziativa a Piramide. Mi sono andato a guardare un po' tutti i giornali per avere anche un legame, diciamo, con quello che accade, e che non sia soltanto attraverso il racconto dei compagni e delle compagne. E la sensazione netta che ne ho tratto è stata questa, che ci sono delle parti in campo dentro questa partita e che la stanno giocando tutta, e che noi siamo costretti ad intervenire dentro questa situazione. Ho visto il grande spazio che ha dato il Corriere della Sera, e mi sono immaginato che la partita del Corriere della Sera stesse giocando fosse tutta in chiave anti-marino. Ho visto lo scarso spazio che ha riservato Repubblica, e probabilmente vive una fazione che sostiene il sindaco. E poi sui giornali che solitamente leggiamo a Roma, che sono Il Messaggero e Il Tempo, perché si leggono nei bar, in tanti luoghi pubblici, tendevano a cancellare, a coprire questa roba, E poi sul Manifesto è uscita la lettera di Mieri e un articolo che intervistava Luca. Beh, io penso che ognuno ha giocato la sua partita, cioè dentro ciò che noi abbiamo prodotto dentro questa città adesso ognuno sta giocando la sua partita, ed è esattamente quello che dicevi tu rispetto alla città che vive sulle spalle di una città grande che soffre, no? Di un grande numero di persone che sono in emergenza sociale, con tanta precarietà sia di vita che alloggiativa. Beh, io penso che noi abbiamo scoperchiato questo tipo di situazione, e però l'abbiamo fatto su un piano soggettivo, cioè dentro questa partita che ci stiamo giocando, anche i momenti di conflitto molto alti come quello del 31 ottobre, è stato giocato dentro un impegno e una soggettività e un'organizzazione sociale costruita molto intorno alle occupazioni, una comunità che cresce, che ha una caratteristica mediccia, ma che cresce anche dal punto di vista della consapevolezza del proprio ruolo, ma comunque nasce dentro una necessità che è quella di un tetto sulla testa. Sta crescendo, intorno a questa ipotesi si sono aggregati soggettività come quella studentesca, come quella del mondo della precarietà. Questo è l'elemento di novità. I giornali che sostengono la rendita, a parte quelli interessati ad attaccare Marino come il Corriere della Sera, tendono a coprire, a cancellare dopo il forte schiaffo dato dalla procura. I giornali stanno aiutando a cancellare questa esperienza, o almeno ci provano. Tenete conto che fino a pochi giorni fa, appena decidevamo di muoverci, c'era uno stuolo di giornalisti al seguito, no? Dopo il 19 ottobre, dopo il 31 ottobre, il 20 novembre. Beh, no? Io su questo ti posso dire che, per esempio, io ho notato molto anche nella mobilitazione contro i CIE, quella di sabato dopo gli arresti, l'assenza delle dirette video del Corriere della Sera, della diretta online della Repubblica. Ma un'assenza che non si spiega da un punto di vista giornalistico, no? C'era però tutto. Si spiega dal punto di vista politico, no? Si spiega, sì. Noi stiamo scoperchiando e mettendo in evidenza un fatto che ha caratteristiche politiche tanto forti. L'intervento di Mieri sul Manifesto io lo leggo in due parti. Allora, uno è quello di prendere parola perché comunque non poteva continuare a rimanere in silenzio rispetto a quello che stava accadendo, ma poi lo leggo pure ai passaggi elettorali, e non è un caso che esca sul Manifesto e che parli ad un popolo di un certo tipo, no? Per cui ritirare fuori la questione degli sfratti eccetera eccetera in quei termini e parlare di noi come interlocutori era necessario anche da questo punto di vista. Per cui come si dice, noi siamo vaccinati rispetto a quello che sta accadendo, e credo che questa cosa preoccupi, il fatto di riuscire a costruire sempre un'agenda indipendente, no? Un percorso autonomo dei movimenti che si danno scadenze, appuntamenti e costruiscono passaggi, è l'altro dato che ha preoccupato molto, e puntualmente la procura a questo punto ha deciso di intervenire. Cioè, nel momento in cui ha capito che stavamo rilanciando tutti insieme a livello nazionale, anche tra le tante differenze che noi rappresentiamo, no? Però ci stavamo riuscendo senza aspettare eventi, controeventi o cose di questo tipo. Questa roba andava fermata, e l'hanno fermata provando a sperimentare un passaggio, perché probabilmente stanno anche sperimentando una modalità, no? Colpire in questo modo adesso gli dà la possibilità di capire quanto sono in grado di fermare, quanto fermano realmente, quanta capacità sto movimento ha di uscire da questa situazione. La partita per noi è questa, cioè è riuscire a capire quanta lucidità siamo in grado di mettere in campo per sconfiggere questa operazione innestata, non solo nei nostri confronti, ma riguarda Napoli, riguarda la Valsusa, riguarda sì, tante altre. Su questo io mi permetterei anche di provare a, per una volta, no, a chiamare anche a raccolta un po' una memoria di questa città, no? Questa è una città che ha comunque, al di là del sonnolento sopravvivere di tante realtà autogestite, di esperienze passate anche di lotte, che hanno sedimentato percorsi grandi, questa è una città con tante realtà occupate, non solo abitative ma anche di tipo sociale, una sorta di richiamo anche a una memoria collettiva, una capacità di ricominciare a porsi collettivamente come soggetti che ragionano insieme sui destini e sui percorsi, non solo spezzettati delle singole iniziative, no? Questa è una città che comunque noi abbiamo registrato in questi anni e in questi mesi anche capace di porre problemi diversi, completamente diversi, dai casali dell'agro romano agli spazi sociali, a tante tante questioni, alle nuove iniziative di comitati di quartiere, alla questione dei rifiuti, cioè a ritrovare per le battaglie in corso, grandi, importanti, ma anche per un tessuto che qualche volta emerge in occasione di importanti manifestazioni, che ha una sua forza, che è fatta anche di generazioni diverse, di compagni e compagne che hanno lottato negli anni in questa città, di capire che è una fase questa in cui non ci si deve tirare indietro. Questo è un po', insomma, non so se è una velleità romantica, ma in qualche maniera è anche una risorsa grande che c'ha questa città, no? Sì, sì, è una necessità prima di tutto, e poi credo che abbia un valore, cioè, penso che la forza del 19 ottobre è stata quella di non aver cancellato le differenze, ma di averle messe a valore dentro un percorso collettivo. Dobbiamo avere cura di questa roba. Quando tu dicevi prima che bisogna allargare, beh, anche la mobilitazione di oggi ha avuto questo tipo di idea, e deve mantenere quest'idea, cioè che il ragionamento non sia rinchiuso dentro la questione abitativa. È fondamentale che l'idea Roma non si vende sia un percorso comune, collettivo, di tutte quelle realtà individuali, collettive, in rete, che dentro Roma sul serio hanno il problema della difesa del patrimonio, del patrimonio comune, del bene comune, o come lo vogliamo nominare. E credo che per risolvere anche la questione della cittadinanza, quel famoso termine di cui parlavi tu, qui c'è una questione che riguarda gli abitanti di questa città. Cioè, o gli abitanti di questa città, diversi tra loro, meticci tra loro, eccetera, decidono di sviluppare sovranità rispetto alle scelte, e per cui contropotere, se vogliamo usare un termine un po' più adatto a questa radio. No? Però io credo che sia questo il nodo, cioè noi abbiamo quelle occupazioni, cose, si è sviluppato una rete di contropotere dentro questa città, e probabilmente hanno voluto colpire proprio questa ipotesi, un'ipotesi di altra città che cresce e che si sviluppa a prescindere dalle scelte legate alla crisi, legate al debito, legate ai patti di stabilità, che prova a produrre. Paolo, io non vorrei interromperti perché il ragionamento è molto interessante, però il tempo a nostra disposizione è finito. No, assolutamente, anche perché gli ascoltatori, noi proviamo sempre a ricordare ai nostri interlocutori che poi gli ascoltatori sentono la radio un po', nel senso, in mezzo alle mille peripezie di questa città, per cui dobbiamo provare sempre a ricordare di che cosa stiamo parlando, qual è il punto, la manifestazione, l'appuntamento, cioè fare sintesi. Noi ringraziamo te e Luca, ma naturalmente non prima di avervi chiesto, naturalmente non so se Giorgio voleva aggiungere qualcosa, prima di avervi chiesto intanto come state, perché è importante anche questo. Quali sono le vostre ancora condizioni in forma, di... Io personalmente ancora in forma, anche se il medico ieri mi ha minacciato dicendo guarda che ce n'è ancora una settimana, poi smetti di essere lucido come sei, per cui dobbiamo uscire prima di questa settimana a questo punto. E questo magari mi sa che è proprio necessario. Sentiamo Luca e ti salutiamo, ti ringraziamo. Sentiamo i saluti di Luca e ti ringraziamo. Luca. No, diciamo che temiamo duro, e sì, le minacce arrivano da parte dei medici, perché diciamo poi si entra in una fase più critica, almeno questo ci viene segnalato, chiaramente per me è la prima esperienza, insomma, quindi. Ma io spero anche l'ultima, insomma. Lo spero di non averne mai più bisogno, insomma, però diciamo che al di là di forme di lotta che appartengono o non appartengono, non bisogna mai scattare nulla a priori, soprattutto mai impedirsi a priori di giocare una carta in qualche modo, almeno per me è importante pensarla così. E chiaramente quando si va al lavoro è un pochino più duro, insomma, però ce la stiamo facendo, reggiamo, e quello che avviene dentro la città ci dà ancora tanto coraggio per andare avanti e diciamo ci fa capire che si è costruito tanto, quindi... No, perché poi la domanda diventa quella semplice, no? Per Paolo, che c'ha qualche chilo da buttare giù, no? Ma tu che, insomma, in quanta forma fisica già stai a posto, insomma, No, vabbè, era per mettere una nota anche tranquilla, allegra, anche per rassicurare della buona salute dei compagni, insomma. Diciamo che per ora la mia compagna non si lamenta, tra un pochino vediamo. Va bene, allora anche io avevo qualcosa da buttare giù. Va bene, allora un abbraccio, un saluto e in piazza oggi pomeriggio. Ciao, grazie, ciao anche a Paolo. Ciao. E allora, niente, non, musica. Un pochino sì. Musica. Direi. Ah no, dobbiamo ricordare una cosa, che è in corso a San Lorenzo un'operazione della polizia amministrativa di decoro urbano, che si sta dedicando a sradicare, per questo, almeno questo succedeva un paio d'ore fa, un'oretta e mezza fa, no, due ore quasi, a sradicare, loro dicono, biciclette abbandonate, motorini abbandonati. Se ci avete una bicicletta un po' arrugginita che pensate di sistemarvi e avete parcheggiato purtroppo magari attaccata a un palo a San Lorenzo, perché di rastrelliere per biciclette ce n'è zero per quanto mi risulta. Sì, stanno al verano, mi pare. Sì, comodamente messe al verano. State attenti e guardatevi intorno, anche motorini un po' vecchi che magari volate mettere a posto. Girano questo nucleo dell'AMA e della polizia amministrativa. Qualcuno dice perché verrà un assessore a San Lorenzo. L'hanno già fatto al Pigneto, l'hanno ripulito per un giorno per poi far venire il sindaco, per poi ricominciare da capo, perché chiaramente loro di mettere quattro rastrelliere e di fare un po' di manutenzione quotidiana non ci pensano proprio. Detto questo, è una nota di colore, ma è seria la cosa. Girano con le cesoie, insomma, quindi attenzione alle biciclette, attenzione al furto della bicicletta. E niente, vabbè, questa era una nota di colore finale. Grazie a tutti, soprattutto per la, come al solito, per la pazienza. 8 marzo, terzo round. Vi siete allenate? Noi siamo pronte. Compagne, lottatrici, sovversive, rivoluzionarie, prendiamo i microfoni. Anche quest'anno, per l'8 marzo, il martedì autogestito da femministe e lesbiche si misura in una sfida che richiede costanza, allenamento, determinazione e creatività. 24 ore di diretta radiofonica femminista e lesbica non stop. Sul ring, donne femministe, lesbiche, gruppi e collettivi di ogni dove. Redazioni femministe di altre radio, centri antiviolenza, blogger. All'angolo il patriarcato. Ascoltaci sabato 8 marzo da mezzanotte alle 24 sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa o in streaming dal sito www.ondarossa.info. Partecipa anche tu, unisci la tua voce a quella di tante altre. mfla@ondarossa.info, mfla.noblogs.org.